La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле-еле, вершок за пять минут. Io non mi sono mai interessata di Twitter e nemmeno delle faccende della famiglia Muccino. E non avevo seguito la lite che moltissimi invece conoscono tra i due fratelli. Anzi, non è giusto accomunarli perché si tratta di un'aggressione. Il fratello maggiore, Gabriele, ha aggredito il più giovane, Silvio, e soprattutto ha diffamato senza scrupoli lui e Carla Evangelista, la donna cui Silvio Muccino è legato da una profonda intesa e dalla creazione comune di libri e di film. Silvio Muccino ha 31 anni, Carla Evangelista ne ha 58 e questo è il crimine. Io ho scoperto questa storia per ultima soltanto grazie a un articolo sul Fatto Quotidiano e mi è sembrata quella di Gabriele Muccino una delle cose più brutte e direi anche più sleali, più vigliacche. Attaccare qualcuno in rete per motivi privati, attentare alla sua immagine. Ma che brutto essere visto da occhi così brutti. Gabriele e Silvio Muccino sono molto famosi, però ricorderò chi sono. Gabriele fa dei film sui giovani, diventa un regista di successo. In questi film recita il fratello Silvio e anche lui diventa una star. Tutti e due diventano delle star, uno come regista e l'altro come attore. Poi a 23 anni, se non sbaglio, Silvio Muccino incontra Carla Evangelista, scrittrice. Insieme fanno un libro, Parlami d'amore, che diventa un bestseller. E presto fanno anche il film, diretto con mano felice, pieno di garbo, di ispirazione, che è un po' la summa del loro incontro. Questa collaborazione continua nel tempo e anche un grande rapporto, ed ecco che a un certo punto il fratello Gabriele, che si trova negli Stati Uniti, comincia a fare un processo su internet al fratello, ma soprattutto alla donna, a Carla Evangelista. E questo è Gabriele Muccino che scrive su Twitter. In pochissimi sanno di chi stia per andare a parlare, ma poco importa. Si tratta di una ex adattatrice dialoghi, improvvisata scrittrice di discutibile talento che ha sequestrato e rovinato il talento e la vita di un promettentissimo ragazzo e attore dall'altrettanto promettente futuro. La signora scrittrice in questione, lei e il giovane ragazzo che l'ha seguita immolandosi per lei come un kamikaze, si sono fatti terra bruciata intorno. Basta chiedere in giro nell'ambiente del cinema romano e chiunque confermerà con tristezza questa realtà. Ma insomma, questa sarebbe l'accusa, che questi due stanno molto per conto loro, cioè non fanno vita mondana. Altro crimine, marchio di diversità, secondo Gabriele Muccino, infamante e prova di un conformismo bovino. Comunque, e poi dice, mi ha querelato per averla definita scrittrice senza talento. E qui comincia con Tchaikovsky, fa dei grandi esempi, Kubrick, Coppola, Leone, che hanno subito critiche peggiori, ma io non credo che qui si tratti di critiche nel talento. Lui ha detto che lei ha plagiato e sequestrato suo fratello. Questa è una critica molto importante, questa è un'accusa molto grave. E poi dice, scomodare un PM per il tuo ego ferito è cosa meschina e rideranno di te ancora di più. Ma adesso io non ho mai visto nessuno, né sentito nessuno che ridesse di Carla Evangelista. Qualche volta invece io ho pensato che i film di Gabriele Muccino facevano ridere i polli. E anzi, completando il pensiero, quando ho visto Parlami d'amore, il film che il giovane Muccino ha scritto con Carla Evangelista, a me è sembrato che valesse da solo più di tutti i film del fratello messi insieme. Perché era sentito, perché era sincero, perché non era un film furbo. Il giornalista del Fatto si indigna anche lui. A parte l'incomprensibile disprezzo per la nobile arte di adattare i dialoghi e un inquietante richiamo al mondo del cinema romano, che sulla fine dell'amore fraterno tutta la verità saprebbe. Quindi non è questione di mettere in dubbio il talento. Questo tono sprezzante e sommamente offensivo chiedeva una rivalsa, dato che la signora evangelista deve essere una persona civile e disdegna di prenderlo a mazzate, sia rivolta correttamente alla legge, perché il danno di mettere alla berlina una persona così in un mezzo di infinita diffusione come Twitter comporta un danno incalcolabile, perché una volta che tu hai gettato un'ombra così odiosa, comunque metà di chi legge crederà alle calunnie di Gabriele Muccino, perché, come sappiamo bene, non si calunnia mai invano. In tutto questo c'è un dettaglio che fa capire la disonestà profonda di questo tentato linciaggio della signora Carla Evangelista. Sottolineo signora e difatti tace. Cioè, Gabriele Muccino le ha rovesciato addosso questa valanga di insulti e di calunnie senza conoscerla. Lui ha parlato di una persona a cui non ha praticamente mai rivolto la parola. So per certo che si sono visti una volta ad una cena con altri e non si sono detti altro che buonasera. Cioè, lui parla come il signor de Germont nella Traviata. 150 anni dopo dice le stesse parole. D'Alfredo il padre in me vedete, sì, dell'incauto che a rovina corre, ammaliato da voi. Invece di incauto, oggi si dice plagiato. Certo, io non conosco neanche Gabriele Muccino, però, come dice il Vangelo, li conoscerete dalle loro azioni. Allora, Silvio Muccino e la signora evangelista sopportano finché, con molto dolore e anche con molta misura, ma anche molto sinceramente, Silvio Muccino risponde, parlando al fratello, perché il fratello dice si è allontanato dalla famiglia per colpa di questa corruttrice, di questa plagiatrice. E allora scrive Silvio Muccino su Twitter: Gabriele conosce benissimo i motivi del mio allontanamento e sa che riguardano gravi episodi vissuti nella mia infanzia all'interno del nucleo familiare, episodi di cui non parlo per decoro e per non nuocere alla mia famiglia. Pochi anni fa fu proprio lui a tagliare i ponti con la nostra famiglia per costruirsi una vita serena con la moglie di allora. Fu proprio lui a dirmi che sarei dovuto, virgolette, scappare da quella famiglia. Ora sembra aver dimenticato, o forse preferisce non ricordare, perché quando il suo matrimonio naufragò, rinnegò tutto e mi comunicò che era stato plagiato dall'ex moglie. Torna il motivo del plagio. Segnalo tra l'altro il nobilissimo silenzio che ha osservato Carla Evangelista, la quale ha soltanto detto alla stampa che le chiede ma perché lei non ha smentito, perché non ha fatto le dichiarazioni pubbliche, e lei risponde mi pareva inutile. Chi crede più alle smentite? E questo è un segno, mi sembra, di notevolissima saggezza. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La Guardiana del Faro. Charmanca, charlatanca. Questa deplorevole storia, molto ingiusta, molto triste, che mi fa proprio ribollire per la sua volgarità, ed è gli attacchi che Gabriele Muccino ha fatto al fratello Silvio, dicendo che lui è plagiato da questa donna, Carla Evangelista, questa scrittrice con cui ha un grande sodalizio professionale e umano. Allora si può fare un'analisi su questo attacco tremendo, plagiato, la gelosia e la rivalità. La rivalità perché evidentemente il fratello maggiore voleva essere l'unico maestro del suo fratello minore, e in lui parla il pregiudizio, parla un rancore spudorato senza vergogna. Quello che mi stupisce è la nessuna coscienza, il non rendersi conto di attaccare una donna soltanto perché si intende bene con suo fratello e perché fanno insieme delle cose anche molto apprezzate dal pubblico. E sembra anzi molto orgoglioso delle sue. La cosa sconcertante è che Gabriele Muccino sembra, con la iattanza con cui parla, sembra molto orgoglioso di quello che dice. E devo citare un'altra volta la frase capitale di Theodor Adorno: volgarità è essere dalla parte della propria degradazione, perché la donna più anziana è la strega, la plagiatrice. E attaccando lei, tra l'altro, è una cosa molto subdola, oltre che triviale, perché attaccando lei vuole distruggere il fratello. Gli nega la cosa più importante per un uomo, l'esercizio del libero arbitrio. Lo castiga perché invece sta adoperando il libero arbitrio con decisione, perché vive come gli pare, senza farsi ricattare né dalla famiglia né dagli usi comuni. No, plagiato. Plagiato vuol dire che non è in grado di intendere e di volere. Ma come? È un'accusa contro ogni logica. Io direi che Silvio Muccino intende e vuole. E altro che, perché ha 31 anni, lavora da 15, ha fatto due film insieme in collaborazione con la signora Evangelista. Chi ha visto Parlami d'amore sente tra loro quanto senso del gioco ci debba essere e anche quanta tenerezza. Gabriele Muccino, attaccando la donna, compie l'omicidio rituale sul fratello. Lo annienta, plagiato, senza personalità, non persona, fantoccio che può essere manipolato. Ma quanto odio e quanto buio. Certo, si può immaginare che lui abbia perso la testa per il successo del fratello, un successo che non dipende da lui e che ha trovato, ripeto, dopo la collaborazione con lei. Silvana Mari, questa studiosa che viene spesso intervistata da Nicoletti a Melog, dice sempre che l'uomo continua ad avere un cervello primordiale, che però dobbiamo usare nei tempi moderni. Ed ecco, è quel cervello primordiale che sta usando Gabriele Muccino nelle sue accuse, perché parla come se fossimo in una civiltà, quantomeno contadina, in cui certo occorre che la donna sia giovane, perché bisogna attaccarla all'aratro, bisogna che zappi, bisogna che faccia i figli, che porti i pesi, altrimenti se non è giovane è una usurpatrice infruttuosa. Ma signor Muccino, noi viviamo in una civiltà urbana. La prego, faccia un salto di qualche migliaio d'anni. Invece, a giudicare dai prodotti che sono usciti dalla loro collaborazione, Silvio Muccino ha trovato in Carla Evangelista la sua espressione. E non solo, ma lei ha precisato la propria. Si devono essere fatti un gran bene l'un l'altro. Perché è veramente da stupidi pensare che è soltanto quello più vecchio che influenza il più giovane. E pensare a una persona di 50 anni come immobile, come già irreversibilmente formata. Ma per fortuna siamo un divenire e gli incontri ci mutano. Io ho spesso lavorato con i giovani in questi ultimi anni. Per esempio, per dirne uno, con il regista Luca Guaragnino, che potrebbe essere non mio figlio, ma mio nipote. E lui ha influenzato me, è stato un maestro per me. Ho lavorato e sto lavorando con Gloria Guerrera, che ha 30 anni e che mi ha ammaestrato su una serie di cose di cui non avevo la minima idea. Ha fatto sì che potessi fare questa trasmissione alla radio. Vorrei soltanto un po' purificare l'aria con un colpo di vento, con due versi di Emily Dickinson. Non sappiamo mai la nostra altezza finché non ci chiedono di alzarci. E allora, se fedeli all'impresa, la nostra altezza tocca i cieli. Ecco, questo deve essere successo a Muccino e Evangelista che si sono incontrati. E naturalmente questo può suscitare dei terremoti di gelosia e di invidia. Gabriele Muccino si è servito di Twitter per compiere un atto di magia nera. Sì, pura necromanzia. Un rito di maledizione, di profanazione. Ha denunciato suo fratello e la strega al pubblico. Li ha voluti imprigionare nel suo giudizio. Lei corruttrice, lui inesistente. E poi contiamo che non ci querelli per quello che stiamo dicendo, perché lui ha scritto che tutti i grandi hanno sopportato qualsiasi ingiuria senza querele, tutti i grandi tra i quali egli si annovera senza alcun dubbio. E allora quindi non ci querelerà, certo, se diciamo che troviamo disgustoso la mediocrità con cui ha attaccato quella che ha eletto la sua nemica e alibi del suo rapporto problematico col fratello. Ecco, se diciamo che lo troviamo ignobile, visto che ai grandi, appunto, secondo lui, non querelano. Se la donna è più vecchia, è la strega da bruciare. Se uno è più giovane, è tollerato come toy boy, l'orrendo neologismo. Come se un ragazzo, attratto da una donna più grande, non potesse che essere un giocattolo. Cioè, se la vecchia paga, se il giovane è in odor di marchetta, sta bene a tutti. Ma se invece è un'attrazione spontanea, che mette in forza gli usi e i costumi, allora accendete le torce, catturate la strega, mettetela alla gogna. E tra l'altro, insultandola, come spesso accade, Gabriele Muccino traccia un terribile autoritratto. Senza pietà si manifesta. Col suo classismo in delirio, perché dice appunto il disprezzo, dov'è il disprezzo per la adattatrice di dialoghi? È lo status. Se fosse stata Sharon Stone, magari sarebbe stata un'altra cosa. È molto triste. Un regista di fama internazionale, si suppone, un intellettuale, parlare secondo il più reazionario pregiudizio. Sì, atto di magia nera. Io vi sporco, io vi guardo con i miei occhi impuri, vi butto addosso come una rete la mia nevrosi, vi contagio con la mia pochezza e con la mia malafede. l'atto disperato di un disperato. E poi si è ritirato da Twitter dicendo praticamente che Twitter non lo merita, anche perché ormai tanto il colpo era stato consumato. Ecco, mi ricorda questa storia che non cambia mai nulla, del pregiudizio, anzi si torna indietro. 40 anni dopo ci troviamo in una storia che rassomiglia a quella di Gabriel Russier, l'insegnante che ebbe una storia d'amore con il suo allievo e la pagò con la vita. Siamo in Francia durante le rivolte studentesche del 68 e Gabriel Russier è un insegnante di 30 anni e 32 quando morirà. E lei e il suo allievo Christian Rossi si innamorano. Sono compagni di lotta e in questa bella esaltazione libertaria si amano sulle barricate. Però scoppia lo scandalo. E non soltanto la famiglia di lui farà in modo praticamente da assassinarla, ma proprio quei ragazzi che si battevano per la fine dei pregiudizi, era un momento di grande esaltazione, ogni libertà si voleva conquistare. Ecco, proprio quei ragazzi condannarono Gabriel con violenza, ma assolsero il ragazzo che si arrese al gruppo e la rinnegò, buttandole addosso la colpa. Lei la seduttrice, la manipolatrice, la puttana, lui la vittima. Vorrei darvi qualche dettaglio in più. I genitori la denunciarono per sottrazione di minore. Lei venne arrestata e poi rilasciata, però continuò a vedersi col ragazzo. Di nuovo i genitori ottennero che fosse messa in prigione. Ci sta questa volta 5 settimane, ne esce, viene processata e il verdetto sono 12 mesi, però con la condizionale. E la pena sarebbe rientrata nella legge di amnistia, ma il procuratore della Repubblica in persona intervenne per chiedere che le dessero invece 13 mesi non amnistiabili. Gabrielle era disperata e la cosa peggiore è che il ragazzo Christian si stava allontanando da lei, aveva ceduto alla pressione sociale. E allora questa donna, prima del processo di appello, a 32 anni, si uccise. Ecco, però, nel caso di Gabriel Russier, il ragazzo la consegna al branco. Il ragazzo fa una biura rispetto al loro amore. Invece Silvio Muccino, no. Ci sta benissimo con questa donna e non permette che nessuno ci entri. Io ricordo, da giovani volevamo fare un film su Gabriel Russier, però giustamente avevamo spostato tutto questo all'epoca medievale, quando quella era proprio la cultura che si respirava, ma vedete che poi in centinaia d'anni tanti progressi non si sono fatti. Quindi la maledizione che ha lanciato il fratello maggiore al minore è: tu non esisti senza di me. Comunque, il colpo è riuscito perché gli ha rovinato la vita, almeno per un po'. È una regola triste, voleva fare il male e ha fatto il male riesce sempre. Però alla fine l'ha fatto a se stesso, oltre che a loro, perché questa è anche una parabola morale. Gabriele Muccino credeva di rovinare pubblicamente Carla Evangelista e invece con la sua azione è diventato un antipatico universale. E in compenso ha procurato molti ammiratori e sostenitori alla signora Evangelista. Io mi ricordo da ragazzina quanto mi offendeva il fatto che delle mie disobbedienze mia madre incolpasse sempre i miei amici, i miei compagni di scuola. Mi scavalcava, mi cancellava, non mi riconosceva la dignità di ribellarmi da sola, la dignità di scegliere. Salutiamo con tutta la simpatia mia, della redazione e anche di tanti amici, Carla Evangelista e Silvio Muccino, che vivono come gli pare, che vivono liberamente. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, non sono il tipo che va a denunciare il marito perché l'ha stuprata. E non è esattamente quello che fa lui con me, ma quasi. Non ha nessun garbo e gli importa ben poco se io ne abbia voglia o no. Consuma in fretta, come se invece che a letto fosse al bar. Un po' distratto, anche un po' seccato, con un'ombra di malumore. Baci e carezze non hanno senso per lui. Io mi chiedo, adesso che si è tanto sviluppata la sessuologia, non c'è qualche teoria moderna che io possa far presente a quest'uomo nel convincerlo che la sua maniera non è giusta? Lo sto prendendo in odio. Ho 28 anni, le occasioni non mi mancano. Dovrò farmi un amante perché qualcuno sia affettuoso con me? Arci stufa. Commovente fiducia nella sessuologia. Ma il tuo problema non è di oggi e il rimedio è altrettanto antico. Invece dei testi attuali che promettono delle felicità truffaldine, io ti consiglio di mettere sotto gli occhi di tuo marito un testo molto più antico, il Kama Sutra, il codice d'amore indiano. Nel capitolo secondo della parte terza, intitolato Come prendere moglie, troverai una lettura molto istruttiva. Secondo questo testo venerando, nei primi giorni del matrimonio, lo sposo dovrà, ti leggo il testo, cercare di entrare in confidenza con la sposa, astenendosi però da ogni rapporto sessuale. Le donne, essendo per natura dolci, vogliono un inizio dolce. Chissà come farsi amare dalle donne, come onorarle e come guadagnarne la confidenza, sarà oggetto d'amore. Ma colui che forza una fanciulla, pensando che è troppo timida, ne viene disprezzato come una bestia che ignori l'anima femminile. Quando il suo amore non è capito e non viene corrisposto, ella sprofonda nella tristezza e comincia a odiare il sesso maschile, oppure ricorre a relazioni con altri. Perfino il Kama Sutra condanna tuo marito alle corna e al disprezzo. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Buongiorno. Le scrivo a proposito della lettera della coppia di 38enni che tradisce non fisicamente i propri partner. Le scrivo poiché è esattamente quello che è accaduto tra mia moglie e me, con me che rappresento il partner tradito. Il rapporto tra mia moglie ed il suo amico è andato avanti per qualche anno in maniera sempre più intensa, fino a che non ho scoperto quanto stesse avvenendo. Dopo 2 anni di convivenza nella consapevolezza, ho lasciato mia moglie. Devo dire che ho più volte cercato di far uscire allo scoperto la relazione tra i due, ma non avendo prove presentabili, non ho mai potuto mettere di fronte alle evidenze la mia compagna. La mia dipartita non ha portato poi al naturale proseguimento della relazione tra i due, cioè alla loro unione aperta. Anzi, la conclusione è stata che i due si sono allontanati. Quindi la relazione tra i due 38enni regge solo grazie al teatrino delle due coppie e dalla elettricità ed eccitazione del rapporto celato. Quale consiglio quindi dare alla donna che le ha scritto? Io le direi che deve andare avanti come stanno facendo, perché l'alternativa è la monotonia del rapporto di coppia. Nel caso poi che i due lasciassero i rispettivi partner, il gioco dei due amanti crollerà miseramente. Stefano. Ma Stefano, io il suo discorso non lo capisco bene. No, ricapitoliamo. Lei ha sofferto per un tradimento prolungato di sua moglie e il tradimento è più maligno e offensivo, quello che non si concretizza. Un amore non consumato che però ha consumato il vostro matrimonio. Tu hai sentito sulla tua pelle il meccanismo meschino di quel giochetto che è finito appena i due si sono ritrovati davanti, soli, senza il piacere di far fesso un altro. E mi dici che consiglieresti all'ascoltatrice, che sta facendo lo stesso, di continuare quel gioco così vano e privo di nobiltà. Non mi sembra logico che tu le consigli di andare avanti così perché l'alternativa, dici, è la monotonia della coppia. Ma guarda che mica è una condanna sta coppia. Ci si può lasciare. L'alternativa è scegliere il movimento di una vita libera. Staccarsi uno dall'altro quando si è così brutti insieme. Tornare a essere decenti, ognuno per conto suo. Stare insieme per ripiego, per quieto vivere, per niente. Secondo me è un peccato mortale. E da laica non prevedo l'inferno dopo, ma l'inferno in vita, momento per momento. È l'abdicazione alla coscienza, al piacere, alla scelta, a sé. È il più stupido degli inganni. Accoppiarsi per dividere il vuoto. Sostenere il matrimonio flirtando con altri senza la dignità di andare almeno fino in fondo. Meglio morire di solitudine che di coppia. Intendo, morire alla bellezza. Cara Barbara, quest'inverno ho conosciuto quello che sembrava l'uomo della mia vita. Intesa perfetta, tutto perfetto. Dopo soli 3 mesi si accennava alla convivenza e poi tutto d'un colpo lui ha cambiato idea, come se fosse un'altra persona. Senza farsi più sentire è sparito. Dopo 2 mesi, dato che ci tenevo e andavo a casa sua per capire cosa gli fosse saltato in testa, mi dice che non è pronto a mettersi con me e a costruire qualcosa. Ora mi dice che lo devo dimenticare. Lui preferisce fare la sua vita da solo, andando al bar e stare con dei falsi amici. Può un uomo rinunciare ad un rapporto vero per restare con delle persone a cui non gliene frega niente? Per paura un uomo può scappare e lasciare tutto. Io lo sento dentro che lo amo. Io lo sento dentro che lo amo. Sento ancora la sua mancanza, anche se sono passati 3 mesi. Ti alzi alla notte, non dormi, Inizi a non mangiare. Capisci che lui era ed è il senso della mia vita. Ma capisci anche che io per lui non sono più niente. Una storia così perfetta può cadere nel nulla. So che non hai la bacchetta magica, ma mi dici se secondo te tornerà o cambierà idea. Chiara. Senti Chiara col K, quando capita un colpo di fulmine bisognerebbe sempre mettere in conto che a volte è la rinascita, ma a volte pure incenerisce. Non fare, ti prego, attrazione fatale, che ti attacchi a una storia finita. Non è vero che il senso della tua vita è stata una bella illusione per un paio di mesi. Anzi, una storia vera è stata, finché è durata. Lui si è buttato di slancio e poi ha capito che non ti voleva più. Non è mica vero che preferisce il Barça, e questo te lo dice. Preferisce stare senza di te. Anzi, dirtelo, secondo me, è un'astuzia molto fine, perché ti dà questa versione misera, rassegnata, per toglierti ogni grillo dal capo. Semplicemente, la cosa non ha funzionato. Non è colpa di nessuno. È una storia in cui non c'è mai stata una vera confidenza. Se no i suoi dubbi te li avrebbe espressi, ma te li avrebbe detti mano a mano che gli venivano, se voleva bene. E no questa sparizione improvvisa. Chiaramente ha taciuto, ha covato e ha taciuto. E non era una storia perfetta, perché per essere perfetta una storia deve essere perfetta per tutti e due. E poi che ne sai? Magari si è preso una cotta per un'altra e ti dice che sta al bar. Non lo saprai mai. C'è da soffrire un po', c'è da guarire, c'è da aspettare che passi. Come dice la volpe nel Piccolo Principe, quando ci si fa addomesticare si soffre sempre un poco e magari molto, ma poi si dimentica. C'è un po' da piangere e mi chiedi anche un libro di poesie per consolarti. Ecco, ti suggerisco le poesie di Algernon Charles Swinburne nella traduzione superba di Bianca Maria Rizzardi, che ti aiuterà a piangere felicemente. Ma poi scusa, chi te lo dice a te che quelli del bar sono finti amici? Anche tu non sei mica tanto amica sua, se ci pensi. Ho un problema. Sono buona. Una parola che ha senso per pochi. Se mi danno un resto in più, lo restituisco. Rinuncio a vendicarmi della collega stronza. Quando i miei fratelli hanno cercato di fregarmi sull'eredità, e il testamento era a mio favore, ho diviso con loro, riparando l'ingiustizia dei genitori. Mio marito mi ha lasciato senza darmi un soldo. Io mi sono affannata nel costruire agli occhi dei figli una sua immagine ideale. Risultato? I fratelli non mi parlano, mio marito non mi è grato, i figli lo preferiscono a me. A volte mi pento della mia bontà inutile. Verdiana. Se ci si deve pentire, tanto valeva essere cattivi. Essere buoni è una scelta orgogliosa, è un modo più lussuoso di vivere. È una cortesia che facciamo noi stessi, una festa segreta, una sfida impertinente. È l'unica rivolta possibile nell'andazzo suicida del mondo. Certo, questo gioco pericoloso, a farlo senza umorismo, senza aver nulla in cambio, è una disgrazia. E poi sai bene che essere del tutto buoni non è dato nemmeno ai santi. Noi siamo figli di Caino. La perfidia rispunta di continuo e di continuo va estirpata. È un lavoro che non finisce mai, tiene occupati fino all'ultimo. È un'occupazione testarda, infantile, titanica e molto più interessante del re criminale. Dammi retta. Esprimi la tua perfidia, sarà meglio per tutti. Mara mi scrive che il suo ragazzo è di una gelosia persino ridicola da commedia e dice: comincio a sospettare che sia poco intelligente, perché se lo fosse non avrebbe questa gelosia così insensata. Ma sai, invece no, nessuno è al riparo, perché non ha a che fare con l'intelligenza. È un impulso irrazionale, non ci si può fare nulla. Mi è ricapitato in questi giorni in mano un libro molto interessante, una biografia di Totò, scritta da sua figlia Liliana De Curtis, intitolato Totò mio padre. Ora, la biografia è sempre una porta proibita dalla quale il lettore penetra nel santuario con l'emozione della profanazione, tanto più se chi lo scrive è la figlia e quando ami il soggetto di cui si parla, perché con Totò non si è solo riso. In Italia è venerato da molti come Garibaldi o come Gesù Bambino. Questa della figlia è una biografia amorosa e rivelatrice dei vizi più maniacali della divina marionetta che dopo la sua morte il mondo intero ha scoperto. E proprio Totò, questo artista che con una smorfia beffava e riassumeva tutti i vizi umani dell'apparenza, era posseduto dalla grande superstizione, la paura d'essere cornuto. Ne aveva un terrore sacro, come se un tale evento potesse cancellare la sua stessa esistenza. La storia con la moglie, la bellissima Diana, è splendida e allucinante, specie se si pensa che testimone di questo amore è la figlia, nata quasi subito dai due innamorati inquieti. Totò incontra Diana quando lui ha 29 anni e lei ne ha 15 e immediatamente, a vista, dice: sposiamoci, tu sei la mia sposa ideale. Lei è travolta dall'amore, i genitori scenate da pazzi, lei ha 15 anni, non se ne parla, scappa di casa e lo raggiunge e si sposano. E lui, Pigmalione raffinato e gentiluomo perfetto, veste anche fisicamente la sua bambola e la inizia ai piaceri dell'eleganza, ma con un patto da barba blu, che i vestiti più belli li indosserà soltanto per lui. Circa la sua paura delle corna, non ci sono giuramenti che bastino e neanche l'evidenza basta. La sua sola sicurezza di non essere tradito sta nel non perdere mai di vista l'amata. Potete immaginare che inferno. Dove va lui, deve andare anche lei. E presto anche la bambina. Totò vive a teatro dalla mattina alla sera, o da spettacoli o prova. Diana e la bambina tutto il giorno nel camerino, sequestrate. Totò è sordo a qualsiasi illuminazione di amorosa fiducia. Si fida solo di ciò che vede. Nel libro vi ha raccontati i sospetti sulla fedeltà di Diana, comici e terribili. Toccano il sommo quando nasce la figlia. E Totò se ne esce con una battuta immortale. La guarda e dice: è troppo brutta, non può essere figlia mia. Finché, arrovellandosi giorno e notte, trova finalmente la grande scappatoia per evitare le corna. Decide di fare annullare il matrimonio e lo ottiene nel pieno dell'amore per ridiventare signorini, come diceva lui, ovvero per amare Diana ed esserne amato senza obblighi. Però non cambia nulla, la sorveglianza poliziesca continua. Lui, che mette in burla le debolezze umane, diventa per gelosia una caricatura consapevole. E come ogni geloso, Totò è traditore. Nel momento stesso in cui dubita, è la propria mania che castiga negli altri. Perché l'amante vero pensa all'amore, il geloso pensa alle corna. Davanti a questa paura sparisce l'oggetto amato, sparisce la confidenza. E Totò, come tutti i gelosi, voleva le corna e si considerava truffato nella sua visione del mondo che nessuno gliela mettesse. La fedeltà assoluta, come l'aveva sua moglie, è il massimo dispetto che si possa fare al geloso, perché solo l'avverarsi della sua profezia lo consola. Nel giallo del geloso è indispensabile il delitto. Lo teme e lo prevede con lo stesso ingegno con cui l'avaro prevede lo spreco. E avaro e geloso sono accomunati anche dal timore dell'avvenimento panico, essere fatti cornuti o spendere. Nel deserto metafisico dell'avaro, lui, spendendo, si sente abbandonato dal patrimonio, perché lo vuole intatto. Avaro e geloso sono sacerdoti di un'utopia sacra, tentano di fermare il tempo, il sentimento, le cose, di negare il moto, di inceppare il destino. Qui non parlo più di Totò, ma in genere il geloso nella sua droga non ha complici. Ingannando tutti, non conosce l'amore e muore solo, fatto cornuto dall'unico della cui fedeltà fosse certo se stesso. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La Guardiana del Faro. Tempo fa, dopo una lunga assenza, è tornato a trovarci quasi spontaneamente il ragazzo ortolano astrologo di Finisterre, molti si ricorderanno, che allora si fregiava impudentemente di un nome rubato a Proust, Robert de Saint-Loup, e che poi abbiamo riconosciuto in una pagina Facebook come Simon and the Stars, una pagina di astrologia su Facebook a dire il vero molto bella e sorprendente, e si capisce che dietro c'è uno studio profondo e una natura artistica a ruota libera. Oggi lo abbiamo pregato di tornare perché ho sentito una notizia a Radio 24 di un magistrato, non ricordo il nome, cioè non è che non voglio dirlo, proprio non lo ricordo, e non mi ricordo nemmeno se fosse un uomo o una donna, che ha l'abitudine di consultare gli astri durante i processi per farsi un'idea del quadro astrale dell'imputato e dell'accusatore. Mi ha molto colpito questa notizia, però non è che mi sono scandalizzata, perché non sapendo niente di astrologia non avrei motivo, e mi sono invece molto incuriosita. E su questo volevo domandare a Simon, che credo La sappia molto lunga in proposito. Ma certo, voglio dire, se questo signore emette la sentenza in base alle coordinate astrali, c'è da avere dei dubbi. Ma se è semplicemente una persona scrupolosa che ha anche questa chiave di immaginazione nella sua mente, allora voglio sentire l'esperto. You are my sister, we were born. So innocent, so full of need. There were times we were friends, but times I was so cruel. Ecco, Simon and Stars sta facendo il suo ingresso al faro. Buongiorno Simon. Buongiorno Barbara. Intanto io ti devo ringraziare perché dalla puntata dell'altra volta mi sono piovuti addosso mi piace e presenze nuove sulla pagina come una grandinata. Beh, sono lieta e come sempre stupita perché non so come si faccia a gestire, come si disse l'altra volta, tutti questi amici, ma sono contenta che tu ne abbia di più. Allora, cosa dici di questo argomento che abbiamo enunciato? Guarda, questa cosa non mi sorprende tantissimo perché aveva incuriosito anche me in passato. Pensa che gli americani sono andati addirittura oltre e hanno creato una branca della astrologia che si chiama astrocriminologia forense e loro addirittura hanno creato dei metodi per studiare un certo evento, per esempio un rapimento, l'ultimo avvistamento di una persona, un crimine, e dando un significato a certi corpi celesti che si usano molto meno in astrologia, sono degli asteroidi, loro riescono addirittura a ipotizzare una certa dinamica delittuosa. Per esempio loro hanno degli asteroidi come Ceres, che rappresenta la figura materna, come Juno, che rappresenta la gelosia, come Toro, che rappresenta la brutalità. E loro, vedendo la posizione di questi asteroidi, si propongono di ricavare delle informazioni su certe dinamiche proprio dell'evento del crimine. E questa è una cosa un po' diversa, anche molto specialistica, sulla quale so poco, perché appunto prende in considerazione degli asteroidi di cui non si fa uso in astrologia normale, oltre poi al Sole e ai pianeti normali. Però quello di cui parli tu è una cosa... E quindi, scusa, è uno studio del tutto diverso? È uno studio del tutto diverso che evidentemente è riuscito a creare una serie di corrispondenze tra dei fatti criminosi noti e la posizione dei rispettivi corpi celesti, questi asteroidi, nel momento in cui sono stati commessi, e come poi funziona il ragionamento astrologico, ha tratto una regola empirica da queste associazioni e prova a replicarla su dei fatti invece di cui non si sa quale sia la dinamica. È chiaro che sono, diciamo, fonti di ispirazione e di spunto, però non è che gli inquirenti si basino su questi fatti, ma sicuramente questo tipo di interpretazione fornisce anche dei suggerimenti poi da corroborare con quelli che sono gli normali strumenti di un'indagine. E gli americani ne fanno molto uso di questo. C'è un solo libro attualmente che sistematicamente ne parla, un libro chiaramente non è pubblicato in Italia, ma è un libro anche molto suggestivo. Però quello di cui parlavi tu, cioè un magistrato che studi e analizzi la carta natale del suo imputato, della sua giuria o dei suoi testimoni, è una cosa un po' diversa, un po' più ampia, che comprendo meglio e che è la possibilità di vedere dalla carta natale di una persona certe sue attitudini, in questo caso per esempio anche la sua attitudine a mentire oppure a enunciare in modo più o meno filtrato la verità, o comunque la sua idoneità a reagire a certi stimoli. Per esempio c'è una parte della carta natale che ci parla proprio della comunicazione verbale di una persona e da questo si potrebbe anche desumere come quella persona è potenzialmente idonea a mentire o meno o come evitare che questo accada. Un esempio tratto da un film che è Codice d'Onore. E in questo film c'è un generale che è Jack Nicholson che ha commesso, è il mandante di un reato molto grave. Però avendo riesce per tutto il corso del film in un processo a eludere qualunque prova, insomma la fa franca continuamente. E dall'altra parte c'è Tom Cruise che si ritrova sempre con un pugno di mosca ed è l'avvocato che cerca di inchiodarlo. Alla fine del film lui sa che è colpevole ed è anche una realtà abbastanza manifesta, però il generale è talmente potente che riesce a evitare qualunque capo d'accusa. Alla fine del film Tom Cruise genialmente lo provoca, per cui mette in discussione il suo orgoglio militare. E questo provoca una reazione scatenata da parte di Jack Nicholson, che con orgoglio ammette di aver commesso il fatto. E questo è qualcosa che a me suggerisce, per esempio, una terza casa, che è quella che rappresenta la comunicazione in Ariete, o comunque una terza casa che coinvolge Marte, perché è evidente che questa provocazione lo fa esplodere, quindi non è una confessione questa, ma è come se lui fosse orgoglioso di questo crimine, perché l'alternativa sarebbe mettere in discussione il suo orgoglio militare. Tom Cruise lo mette dinanzi a questa alternativa: o sei stato tu o un tuo ordine è stato disobbedito. Di fronte a questa alternativa, il suo orgoglio militare fa sì che lui spari la verità, nonostante questa lo inchiodi, in faccia a tutta la giuria, e chiaramente venga condannato. Questo tipo di osservazione della terza casa sulla carta astrologica ci fornisce delle chiavi importanti per capire una persona interrogata come reagisce a certi input. Non è tanto una macchina della verità, cioè non è tanto un modo di capire se una cosa è vera o è falsa, ma è un modo per capire come approcciare un testimone per fargli tirar fuori la verità, anche provocandolo eventualmente. E la stessa cosa poi, per esempio, vale anche nei confronti della giuria. Un giurato può essere più o meno influenzabile, più o meno emotivamente coinvolto o più o meno freddo. E per esempio nel processo americano, dove c'è tutta una fase che è proprio sulla scelta dei giurati, un'analisi di questo tipo può essere molto interessante, perché ti porta a escluderne alcuni che normalmente non avresti escluso, forse perché più facilmente ed emotivamente coinvolgibili. Quindi in realtà questa cosa, diciamo, del magistrato, che mi sorprende che accada in Italia, ma non mi sorprenderebbe sentirne parlare negli Stati Uniti, è una cosa che è un po' applicabile a tutte le branche, perché la conoscenza della carta natale di una persona svela delle cose realmente molto intime. Per una persona che crede nell'astrologia, rivelare la propria data di nascita e la propria ora di nascita è un dato molto importante. Molto. Quindi credere nell'astrologia non come fede, ma credere vuol dire conoscerla, evidentemente. Perché sai, i commenti che ho sentito su questa storia sono stati come i processi alle streghe, nella nostra cultura irrazionale ma poi fanaticamente razionalista, tutto questo viene preso come una superstizione. E certo, se sapessi anche che il magistrato che mi deve giudicare si sta basando sulla mia carta astrale, mi tremerebbe il cuore pure a me. Dimmi che non mi deve tremare, spiegami. Questo è vero, però sia il caso della ricostruzione di un evento grazie perché io secondo le carte astrali sono una pazza, voglio dire. Ma quello fa parte del regno dell'intuizione, che è presente nel lavoro di chiunque. Poi l'intuizione cerchiamo di corroborarla con altro, però l'intuizione indubbiamente ci guida. Sarebbe preoccupante se restasse solo quella e se io emettessi una sentenza solo sulla base di quello, ma un'intuizione mi porta avanti. You are my sister and I love you. May all of your Capitaneria di Porto. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è anche in libreria, con le lettere e i racconti sull'amore letti da Barbara Alberti a Radio 24. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Valerio Rocchetti, a cura di Gloria Guerrera.